No, last night was an introduction to the Satipatthana meditation practice, and today we shall go a bit deeper, and the emphasis will be on Satipatthana, in particular mindfulness sati, as well as effort virya. Quindi ieri sera c'è stata un'introduzione alla meditazione del Satipatthana. Questa sera andremo un pochino più in profondità e in particolare parleremo del Satipatthana e di due facoltà che sono della mente, che sono sati, la consapevolezza, e viria, l'energia o lo sforzo. No. The Buddha has certainly given many teachings relevant to the mindfulness practice. Among those, the Satipatthana Sutta from the Majjhima Nikaya, so the middle length discourses of the Buddha, as well as the version from the Mahasatipatthana Sutta from the Digha Nikaya, the long discourses, are the most important ones. Quindi Buddha ha dato vari insegnamenti riguardo scusate, alla pratica di consapevolezza e in particolare un sutta che è il Satipatthana Sutta, si trova nel Majjhima Nikaya, e un altro è il Maha Satipatthana Sutta che si trova nel Digha Nikaya. No, the Buddha has given discourses on Satipatthana, namely the establishment of mindfulness, not from just imagination, but rather from actually doing the practice himself and gaining the Dhamma himself. Quindi il Buddha ha offerto questi insegnamenti sul Satipatthana, cioè sui quattro fondamenti della consapevolezza, non solo così attraverso una sua immaginazione, ma avendo fatto lui stesso questa pratica e aver avuto lui stesso una esperienza di Dhamma. And people at the time of the Buddha receiving these teachings have gained the Dhamma. E le persone che hanno vissuto ai tempi del Buddha e hanno ricevuto questi insegnamenti, loro stessi hanno ottenuto o raggiunto il Dhamma. And it is over a period of over 2,500 years, that these teachings have been put into practice, have been tested, and have withstood the test of time. Quindi questi insegnamenti sono stati messi in pratica, sono stati seguiti e sono stati anche comprovati nell'arco di un periodo di 2500 anni. Quindi hanno, come dire, superato la prova del tempo. And so it is even in our present time and certain age that certain of these teachings on Satipatthana are still valid. E anche nel nostro tempo, nella nostra epoca, questi insegnamenti su Satipatthana sono ancora validi. And not only that they are valid, but certainly that they are being practiced by thousands and thousands of people worldwide. Non solo sono validi, ma sono seguiti e praticati da migliaia e migliaia di persone in tutto il mondo. No, because of the fact that many people have benefited from these certain teachings, modern sciences, in particular neurosciences, are focusing more and more on the meditation practice and its results, the changes, for instance, in the brain of human beings. E poiché così tante persone hanno avuto dei benefici da questa pratica del Satipatthana, sempre più nell'ambito della scienza, soprattutto della neuroscienza, si stanno conducendo degli studi per capire in che modo il cervello, insomma la mente delle persone venga modificata così, come conseguenza della pratica meditativa. For instance, until about, if I'm not mistaken, about the 1950s, the prevalent opinion among scientists was that having reached a certain age, the mind or the brain cannot be changed anymore. La teoria prevalente tra gli scienziati fino agli anni 50 più o meno era quella che dopo una certa età, cioè dopo, anzi, quindi non gli anni 50, scusate, dopo i 50 anni di età, la mente non può più modificarsi praticamente, non sono più possibili cambiamenti nel cervello o nella mente. Having become an adult, the mind certainly cannot be changed anymore. Sì, quando uno quindi diventa adulto c'era questa idea tra gli scienziati che appunto la mente non potesse più essere modificata. And so the implication is that the mind that you have can just easily will be like this for until the rest of your life. Okay, questo vuol dire quindi che la mente che uno possiede nell'età adulta sarà quella che poi avrà fino alla fine della sua vita, per tutta la vita. Now, over time, modern neurosciences have found that the mind can be changed, that it can be transformed, and certainly that even in a person in whom unwholesome destructive mental states tend to be prevalent, this over time with the help of the meditation practice then gradually gets changed to a mind in which wholesome mental states are more active, more prevalent. Invece adesso stanno scoprendo i neuroscienziati che la mente effettivamente può cambiare anche in età adulta, e che una mente in cui sono presenti degli stati mentali non salutari o distruttivi effettivamente può trasformarsi e può come dire, sviluppare invece quegli stati mentali positivi e salutari grazie anche alla pratica meditativa. And the implication here is certainly that even if right now we experience some degree of unhappiness or discontentment, dissatisfaction, then this can be changed around, and mindfulness practice will help for this. E quindi questo significa anche che se noi stiamo sperimentando un certo grado di insoddisfazione o infelicità, beh, questo può effettivamente cambiare, non solamente può cambiare con il tempo e grazie alla pratica meditativa. Now, the overall structure of the Satipatthana Sutta is as follows. Namely, it starts with an introduction about the time and place where it, or especially the place where it was first given, and then mentioning the major benefits of this practice, namely seven benefits, and then going on with a description of mindfulness of the body, and this then comprises the following points which I will mention. Sì, quindi la struttura del Satipatthana è la seguente. Inizia con una presentazione, un'introduzione riguardo al luogo e al tempo in cui è stato pronunciato, poi parla dei benefici di questa pratica e ne elenca sette benefici del Satipatthana. Poi c'è una introduzione su come sviluppare la consapevolezza riguardo al corpo, e questa è la parte che adesso spiegheremo meglio. And so mindfulness of the body, Kayana Upasana Satipatthana in the Pali scriptural language, then covers aspects such as being mindful of one's breathing, such as being mindful of postures, such as being mindful of activities, and then anatomical parts, elements, and then a corpse in decay. Quindi lo sviluppo della consapevolezza riguardo al corpo, Kaya Nupassana Satipatthana, copre vari ambiti. Quindi c'è la consapevolezza del respiro, la consapevolezza, spero di ricordarmi tutto, the breathing, la postura, postures. Quindi le diverse posture che può prendere il corpo, le attività del corpo, anatomical parts. Le parti anatomiche, le varie parti anatomiche, gli elementi, e anche infine così la contemplazione di un corpo o di un cadavere che si decompone. Now, le sue varie fasi. The next topic of observation, mindful observation, consists of feelings. And by feelings we do not mean emotions, but rather the affective quality of an object, such as being pleasant, unpleasant or neutral. Il secondo ambito di esplorazione, di osservazione, sono le sensazioni, i sentimenti, ma qui non intendiamo le emozioni, ma piuttosto quella qualità affettiva che ha un oggetto, che può essere piacevole, spiacevole o neutro. And so it is because we tend to react quite strongly with regard to pleasant and unpleasant feelings, and also neutral feelings, and that the Buddha prescribed or suggested this as a form of mindfulness practice. E proprio perché abbiamo questa tendenza a reagire rispetto agli oggetti, appunto ritenendoli piacevoli, spiacevoli o anche neutri. È proprio per questo che il Buddha quindi ha preso questo ambito come un ambito importante per la nostra osservazione e per la meditazione. So, for instance, we see some desirable object, and suddenly in the absence of mindfulness, in this context, a pleasant feeling arises. The result of this is going to be that we want to see more and more of the same object. Per esempio, sorge un oggetto gradevole, di conseguenza noi sviluppiamo una sensazione di piacevolezza verso questo oggetto, e questo poi ci porterà a volerlo ne desiderare sempre di più, a voler vedere questo oggetto sempre di più. On the other hand, if we happen to see or hear some undesirable object, and again we're not mindful, then this will be accompanied by an unpleasant feeling, and then disliking, wanting to get rid of the object, will follow. Viceversa, se sorge un oggetto spiacevole e noi non siamo consapevoli, allora nascerà in noi una sensazione appunto di sgradevolezza, e vorremmo quindi liberarci o eliminare questo oggetto, questa sensazione. No, human beings exist not only of physical phenomena, so related to the body, but to a great extent our experiences are determined also by mental phenomena. Quindi l'essere umano non ha solamente delle esperienze sul piano fisico, ma anche tutte le esperienze che riguardano invece il piano mentale. And certainly these mental phenomena, especially mental states, very much govern our experiences as we go through life, in a positive way as well as in a negative way. Quindi questo aspetto mentale, questi stati mentali hanno una grande importanza e governano in larga misura la nostra vita, come ci comportiamo nella vita, sia in un modo positivo che in un modo negativo. And certainly depending on whether mostly unwholesome mental states arise or mostly wholesome mental states arise, will end up feeling unhappy or happy, contented. Quindi sulla base della qualità di questi stati mentali, che siano salutari o non salutari, e questo avrà come conseguenza che noi creeremo una situazione di felicità o piuttosto di infelicità. And so, since the mind has a tremendous potential in terms of transformation, in terms of mental, in terms of development, the Buddha included a mindful observation of mental objects of the mind as the third form of Satipatthana. Quindi, siccome la mente ha tutta questa potenzialità e c'è tutta questa potenzialità di trasformazione o di sviluppo mentale, ecco che il Buddha ha incluso quindi questo terzo ambito di esplorazione, di osservazione, che è appunto l'osservazione della mente, la contemplazione della mente. Now, there are certain groups of teachings that retreatants are likely to experience again and again, or are likely to experience in the course of their meditation practice, such as the hindrances, such as the aggregates, such as the enlightenment factors. And thus, the Buddha also recommended these and others for a careful, mindful observation. Quindi ci sono dei fenomeni mentali che presentano nella mente dei meditanti abbastanza frequentemente e hanno una certa rilevanza, e sono per esempio i cinque ostacoli o gli aggregati o i fattori dell'illuminazione, e quindi il Buddha ha incluso anche questi oggetti mentali come sfera, diciamo, della nostra osservazione. Appartengono al quarto, alla quarta sfera. Now, having explained in detail the four establishments of mindfulness, the Buddha then goes on to speak about the prediction, what will happen if one practices accordingly, namely in terms of realizing the Dhamma. Quindi dopo aver spiegato questi quattro fondamenti della consapevolezza nel Satipatthana Sutta, il Buddha poi fa delle previsioni e quindi illustra quali saranno gli effetti e i benefici che si otterranno nel seguire questo tipo di pratica, e gli effetti saranno appunto la realizzazione del Dhamma. And certainly with this certainly then the Buddha comes after mentioning the seven benefits again, he then comes to a conclusion of this particular discourse. Poi ripete ancora i sette benefici della pratica e poi c'è una conclusione di tutto il discorso. No. The question might be asked, do we have to practice only Gayana Vasana Satipatthana, or do we have to practice all, or what's the approach? When we actually undertake the meditation practice, all four of these come up again and again. Quindi la domanda potrebbe sorgere, ma noi dobbiamo praticare solo Kaya Nupassana Satipatthana, cioè la contemplazione del corpo, oppure tutti e quattro gli ambiti, tutti e quattro i fondamenti della consapevolezza? Beh, durante una pratica meditativa, oggetti da tutti e quattro queste sfere, diciamo così, si presenteranno. When some predominant pain arises in the body and we are mindful of this, then we're practicing mindful contemplation of the body. If this pain is accompanied by a prominent unpleasant feeling and we're mindful of this unpleasant feeling, then we practice Vedana Nupassana, so mindful contemplation of feelings. Se per esempio sorge un dolore nel nostro corpo e noi lo osserviamo con consapevolezza, stiamo facendo Kaya Nupassana, quindi la contemplazione del corpo. Se invece rispetto a questo dolore c'è una sensazione spiacevole, allora in quel momento stiamo facendo Vedana Nupassana, cioè stiamo facendo la contemplazione delle sensazioni. And suddenly when then aversion arises towards satna, the initial pain, and we are mindful of the aversion, then it becomes a form of, or it is an aspect of the contemplation of the mind, citta nupassana satipatthana. Se di conseguenza questa spiacevolezza nel corpo sorge dell'avversione, allora in quel momento noi stiamo facendo una contemplazione consapevole della mente e quindi citta nupassana. And suddenly if this aversion arises as part of the remaining hindrances, then and we recognize, the five hindrances are currently arising in my practice, then it becomes a contemplation of the Dhamma Nupassana Satipatthana in the Pali scriptural language. E se questa avversione che è sorta fa parte del gruppo dei cinque ostacoli e noi lo riconosciamo come tale, allora stiamo osservando i Dhamma, gli oggetti della mente, stiamo facendo Dhamma Nupassana. No. Once certainly we've embarked on this path of mindfulness practice and we start to direct our attention inwards and certainly then carefully observe what is happening in the body and in the mind, we might discover there's a huge variety of objects that is coming up for observation. Quindi quando cominciamo questa pratica della consapevolezza e quindi in qualche modo rivolgiamo la nostra attenzione verso l'interno, noi potremmo accorgerci che c'è un'enorme varietà di oggetti che si presentano alla nostra osservazione. And certainly so we have the rising and falling movement of the abdomen with its many, many different manifestations. We have a great variety of pains and aches that come up in the body. We have a great variety of bodily movements. And there are other objects related to feelings, and then all these many mental objects, and certain Dhamma aspects. So those, if we think of our meditation practice over, or if we think of objects observed in the course of one retreat, in the course of several retreats, then we find there's a huge number of those objects. Quindi pensate solo ai diversi modi in cui si può presentare l'addome, quindi nel suo alzarsi e nel suo abbassarsi, o a tutti i dolori che si presentano nel corpo durante la pratica, o le varie sensazioni, i movimenti all'interno del corpo, alle nostre reazioni, piacevoli, spiacevoli o neutre, anche a tutti gli oggetti mentali che possono sorgere. Poi se moltiplicate tutte queste osservazioni di una seduta, poi di un ritiro, poi di vari ritiri che si possono fare, ecco che vedete che la gamma è veramente molto ampia. No. What we need to do with all those certain many objects and that come up for observation because they are predominant is to look at them, to observe them carefully, to observe them with mindfulness. Quindi cosa dobbiamo fare con tutti questi oggetti che si presentano all'osservazione? Beh, dobbiamo ovviamente guardarli e osservarli molto attentamente e con consapevolezza. No. when it comes to the rising falling movement of the abdomen, then it's not enough to observe it just once and then there's no need to observe it again. Not at all like this. The rising falling movement of the abdomen, as any of the other objects, will undergo many changes, and therefore it needs to be observed again and again and again. Quanto riguarda il movimento dell'addome, non è sufficiente osservarlo una volta sola e poi lasciare perdere, ma così come tutti gli altri fenomeni che si presentano, anch'esso avrà molti molti cambiamenti ed è per questo che è necessario osservarlo ripetutamente. And the Pali word, verb for this is anupassati. So, pasati means to see, to look at. And anu is in the sense of repeatedly. So, to repeatedly look at something, to observe closely, in other words, to contemplate what is happening. Quindi la parola in Pali per questo esercizio scusate, è anupassati. Passati significa guardare. E anu ripetutamente, quindi qui l'indicazione è di guardare ripetutamente il fenomeno che si presenta e quindi in altre parole contemplarlo. Now, the Visuddhimagga, the path of purification, which is a kind of an encyclopedia for the meditation practice, defines this anupassati as follows. It says it implies observation of an object repeatedly and in diverse ways, in other words from different angles. Quindi il Visuddhimagga, che è il sentiero della purificazione, è considerato una specie di enciclopedia per il meditante, definisce in questo modo il termine anupassati, cioè l'osservazione di un oggetto, di un fenomeno, ripetutamente e in modalità diverse, in modi diversi. Quindi questo significa osservarlo continuamente e da diverse angolazioni. So, in the sense of repeatedly and from different angles, observing prominent objects, we are not different from small children that are growing up and who are exploring the world around them. Ecco, per quanto riguarda questo osservare in maniera ripetuta e da diverse angolazioni, non siamo molto diversi dai bambini che stanno crescendo e stanno esplorando il mondo che è intorno a loro. And so those growing or small children will see an object and then grasp it, touch it, all of its surface, maybe even smell it, maybe even stick it into the mouth, and in this way trying to fully understand what this object is all about. Quindi quando i bambini scoprono un oggetto nuovo, lo guardano, lo toccano, lo manipolano, toccano tutta la superficie, magari lo annusano o lo mettono anche in bocca. Quindi questo è un loro modo di conoscere l'oggetto e di capire esattamente di cosa si tratta. No, the main instruction from the Satipatthana Sutta for a mindful contemplation of the body, of feelings, of the mind, and of dhammas, is contemplate with regard to the body in a diligent manner, with ardent energy, comprehending, clearly comprehending, and being mindful. Quindi le istruzioni principali che vengono date nel Satipatthana Sutta riguardo alla contemplazione di questi quattro ambiti è che occorre guardare in maniera diligente, ardentemente, pienamente comprendendo l'oggetto e in piena consapevolezza. No. In this regard, mindfulness occupies an important place, probably the most important place. Quindi a questo riguardo forse il posto principale è occupato proprio dalla consapevolezza. And certainly hence it's important to understand or gain an understanding of the qualities of mindfulness. What is this mindfulness all about? Quindi è molto importante capire le qualità di questa consapevolezza. Quindi di cosa si tratta esattamente? Cos'è esattamente? Cosa si intende esattamente per consapevolezza? O presenza mentale? So, mindfulness in the Pali scriptural language is known as sati. And then, when it occurs in the context of the term satipatthana, it means mindful contemplation or establishment of mindfulness. Quindi sati è la parola pali che corrisponde appunto all'italiano consapevolezza o presenza mentale. Nell'ambito del satipatthana significa una establishment of mindfulness on the object. Okay, significa quindi una stabilizzazione della consapevolezza sull'oggetto. And to be more precise, a close and firm and steadfast establishment of mindfulness on the respective object of observation. Se vogliamo essere ancora più precisi, è questa stabilizzazione ferma e continua, costante, molto aderente della consapevolezza sul suo oggetto. Now, this mindfulness or awareness or observing power or heedfulness, presence of mind, it's been referred to in different ways. Mindfulness then is classically defined as having the characteristic of non-superficiality. Quindi questo particolare tipo di consapevolezza, che è anche chiamata presenza mentale o attenzione o potere della mente, potere di osservazione, eccetera, ha determinate caratteristiche e and its characteristic is has been defined non-superficiality. E quindi la sua caratteristica principale è la non superficialità. So, what this means in practice is that when a prominent object occurs, that we observe that object not skimming over the surface of the object, but rather letting the mind sink into the object. Quindi questo significa che quando osserviamo un oggetto che si presenta, la mente non scivola sopra l'oggetto, ma piuttosto è come se si affondasse dentro l'oggetto, come si sprofondasse nell'oggetto per conoscere. The function of this mindfulness is certainly given as keeping the object in view, or in other words, absence of confusion or non-forgetfulness. La funzione di questo tipo di consapevolezza è quella di tenere ben in vista l'oggetto e anche la caratteristica della non confusione e anche la non dimenticanza, non dimenticarsi della presenza di questo oggetto. So, when a prominent object has arisen, then we keep our mind on this object. We keep it in view. We don't let it. We don't suddenly move our attention to some other object, but rather we stay with that first object. Quindi questo significa che quando sorge un oggetto preminente, diciamo, allora noi non lo perdiamo di vista, noi andiamo con l'attenzione su questo oggetto, teniamo l'attenzione lì e non ci spostiamo facilmente su un altro oggetto. Now, a good certain example in this certain context is playing soccer. So, if some professional soccer player is, if you have two teams of soccer players engaged in a match, then all of those 22 players will keep the football in view. They will have their eyes fixed on the football. And as meditators, we are just like this. Quindi un buon esempio per illustrare questa funzione della consapevolezza è quello di pensare a una partita di calcio, composta da 22 giocatori, potete essere certi che tutti i 22 giocatori delle due squadre non perderanno di vista neanche per un attimo il pallone. No. E i meditanti devono fare esattamente così. And certainly the manifestation of mindfulness is certain twofold. First, as a state of confrontation, a state of being face to face with the prominent object, and the second manifestation is as protection. Ci sono due sono le manifestazioni della consapevolezza. La prima è il confrontarsi, cioè l'essere faccia a faccia con l'oggetto, e la seconda manifestazione è di protezione della mente. So when a prominent object has arisen in the body or in the mind, and then we want to face it squarely, we want to look at it directly, and in order to study it carefully and to know its nature. Quindi quando sorge un oggetto, diventa l'oggetto prioritario o nella mente o nel corpo, quello che vogliamo fare è di mirare bene, prendere bene l'oggetto, focalizzare bene sull'oggetto e non perderlo assolutamente di vista. E questo per poterne conoscere la vera natura. No, when one is mindful of every observed, every predominant object that comes up, and certain one is facing it squarely, then the result of this over a longer period of time will be purity of mind. Quindi quando uno ha questa attenzione riguardo all'oggetto preminente che sorge e lo affronta direttamente, il risultato di questo è che nel tempo svilupperà una certa purezza della mente. And certainly the fact that the mind is pure then shows that the mind is pure. It means it is free from unwholesome mental states. In other words, it is protected. E quindi la mente, quando è pura, è libera dagli stati mentali non salutari e di conseguenza una mente protetta. Now, when it comes to factors or conditions that contribute to the arising of mindfulness, the texts say the first one is a strong perception of the respective object of observation, and the second one lies simply in the four establishments of mindfulness. E quindi quando si invece per quanto riguarda i fattori che aiutano a sviluppare questa consapevolezza, il primo è una chiara percezione dell'oggetto che è sorto, e il secondo fattore invece sono i quattro fondamenti della consapevolezza stessi. No, when we practice, then our mindfulness needs to possess certain of these qualities as given so far, and certain other qualities also will be necessary, such as immediacy. So as soon as an object of observation arises, immediately, instantly, our observing mind should go towards that object. Quindi oltre a queste caratteristiche che abbiamo elencato, ci sono altre qualità necessarie per lo sviluppo di questa particolare consapevolezza, e una delle qualità è l'immediatezza, cioè appena sorge un oggetto la mente deve immediatamente, come dire, proiettarsi o focalizzare sulla, il proprio potere di osservazione su questo oggetto che è sorto. No. Our mindfulness sadhana should not be of an ordinary type, but rather of an extraordinary or even intensive type. Quindi questa consapevolezza non è una consapevolezza di tipo ordinario, ma è una consapevolezza straordinaria, e ha anche delle qualità di intensive. Sì. Anche particolarmente intensa. So we need to the mindfulness, for instance, that is present during daily practice will probably not be sufficient for an intensive retreat. Quindi la consapevolezza che normalmente abbiamo nella nostra, nelle nostre attività quotidiane probabilmente non sarà sufficiente per un ritiro intensivo. No. Other qualities that mindfulness sadhana should possess are just briefly stated. The mind should firmly grasp the prominent object of observation. Altre qualità che deve avere questa consapevolezza è che deve afferrare in maniera molto ferma l'oggetto che viene osservato. And it should also cover the entire object. E dovrebbe coprire l'intero oggetto. This morning, the continuity of mindfulness sadhana was sadhana stressed, and sadhana this remains sadhana valid. Questa mattina abbiamo sottolineato l'importanza della continuità della consapevolezza, e quindi questo è anche un'altra delle qualità che devono essere presenti. Now, when we practice mindfulness meditation, then we try not to manipulate our experiences, not to control our experiences, not to make them happen according to our wishes, but rather to let things unfold naturally, and we're just a witness to what is happening. Quindi quando usiamo questo tipo di consapevolezza nella nostra pratica, dobbiamo fare attenzione a non manipolare la nostra esperienza, quindi a non controllarla, a non cercare di fare in modo che sia diversa da quella che è o che corrisponda ai nostri desideri. Dobbiamo semplicemente osservare il fenomeno o l'esperienza così come si sviluppa nel modo più naturale. No. In medical sciences, a surgeon will make use of a probe and put the probe into a wound to see what's into the wound or even into the body to see what is actually happening. Nella scienza medica, un chirurgo userà una specie di sonda, un sondino che infilerà in una ferita o nel corpo per vedere esattamente quello che sta succedendo, qual è il problema. And so just like a surgeon will place a probe into a wound or into the body in order to gather information, so too, as retreatants, we need to make good use of the probe of mindfulness in order to gather information about the respective object of observation. Così come un chirurgo usa questa sonda per esplorare la ferita e capire bene come è fatta, la sua natura, la sua qualità, quindi allo stesso modo un meditante dovrà usare questa sonda della consapevolezza per esplorare il suo oggetto e capire la sua vera natura. No. When observing objects, we want to do this with a calm and certain detached type of observation. Quando osserviamo un oggetto, questo lo vogliamo fare con un atteggiamento calmo e distaccato. Un'osservazione calma e distaccata. And with this we are somewhat similar to a cowherd at the time of the Buddha, who looks after the cattle, and all the cowherd needs to do is just to make sure that the cattle are there, to occasionally count them, and that's it. And he or she will do this with a calm and detached attitude. E quindi un esempio per capire bene questo tipo di atteggiamento può essere quello di un guardiano di mucche, come era ai tempi del Buddha, ma ci sono anche adesso, che tutto quello che deve fare è controllare la sua mandria, ogni tanto contarle e assicurarsi che insomma siano al sicuro. Then when we observe prominent certain objects, we want to do this with non-conceptual awareness. So not placing any concept over our experience, not sort of introducing something foreign, but rather just observing what is actually happening. Un altro atteggiamento che dobbiamo tenere è quello di non utilizzare troppo i concetti per le nostre esperienze, cioè non aggiungere delle cose alle nostre esperienze, ma semplicemente osservare quello che sta realmente accadendo, si sta presentando. And so, when being mindful, we want to remain as much as possible in the present moment. Quindi quando siamo consapevoli noi vogliamo restare il più possibile nel momento presente. So in other words, what we need is a present time awareness. In altre parole, quello che ci serve è una consapevolezza nel momento presente. And so, sometimes meditators come, or people come on retreat with high hopes, with high expectations, and wanting to gain the Dhamma within, let's say, this 10-day retreat. And so, then when practicing, when observing objects, this goal orientation, this expectation is there all the time and underlying one's practice, and that really interferes with one's practice. So this is not needed. Spesso quando ci sono dei meditanti che vengono a un ritiro e hanno delle aspettative, cioè sperano di appunto raggiungere il Dhamma nell'arco di un ritiro di 10 giorni, per esempio. Quindi questa aspettativa, questo atteggiamento così orientato verso un risultato, in realtà contamina un po' la loro pratica, può essere una cosa un po' così sottostante, però ha un effetto sulla pratica che non è positivo e va evitato. Now, in the Satipatthana instructions we find, or it says, that we observe the body in the body, feelings in feelings, the mind in the mind, and dhammas in dhammas. Now, this reflects this observing the body in the body, etc. This has a or showing a certain reflexive character of our mindfulness. So when we observe an object like a pain, then we just observe that pain, and not we don't get certainly carried away at that moment with, let's say, an observation of the feeling or something else. Quindi nelle istruzioni che il Buddha dà nel Satipatthana, invece di osservare o contemplare il corpo nel corpo, le sensazioni nelle sensazioni, la mente nella mente, i Dhamma nei Dhamma, e quindi questo indica questa caratteristica riflessiva della consapevolezza. Quindi in altre parole, quando stiamo osservando per esempio un dolore, allora rimaniamo solo con il dolore e non siamo distratti da un altro oggetto, un'altra sensazione nel corpo, per esempio. So we need to isolate each domain at a given time. Quindi è come se noi isolassimo ciascun ambito in ogni preciso momento di osservazione. So if a pain is prominent, then we focus on this pain for a while, but if later on something else becomes more prominent, okay, then we focus on that object. So one thing at a time. Quindi se in quel momento è più prevalente, diciamo, la sensazione di un dolore, restiamo con quella sensazione. Poi se sorge qualcos'altro di più prevalente del dolore, allora possiamo spostare l'attenzione lì, però sempre una cosa per volta. And so for instance, when we observe the rising and falling movement of the abdomen, then we observe it as simply rising and falling and not a person or self who is breathing. Inoltre, quando osserviamo l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome, noi lo osserviamo solo come un fenomeno che sta succedendo, un processo, ma non come una persona che sta respirando. And so when we observe feelings, we just observe feelings as certain feelings and not as episodes in a long biography. E allo stesso modo, quando osserviamo le sensazioni, le vediamo solo come sensazioni, non come degli elementi all'interno di una biografia. And so when we observe states of mind, we observe them as just certain states of mind and not as certain scenes in a personal drama. E quando osserviamo gli stati mentali, li vediamo solo come stati mentali e non come delle scene in una rappresentazione, diciamo, personale, no? Rappresentazione teatrale, personale. And so when observing phenomena, we just observe them as certain simply phenomena and not as personal achievements or liabilities. E anche quando osserviamo i Dhamma, i fenomeni della mente, li vediamo solo come fenomeni e non invece come liability, achievements and liabilities. Non solo non come dei raggiungimenti, diciamo, personali. Liabilities, you mean? Liabilities like having obligations and so on. Sì, oppure come degli obblighi personali. No. As is indicated in the Satipatthana Sutta already or itself, mindfulness needs to be accompanied by other factors, and one of those certain factors is ardent energy. Come viene indicato nel Satipatthana, nei testi, la consapevolezza va accompagnata da altri fattori, e gli altri fattori sono questa energia ardente. Uno dei fattori è l'energia ardente. And so the ardent energy in the Pali scripture language is given as atapa, and so it is certain defined as burning up and or exhaustion of the mental defilements. E quindi nella lingua Pali questa energia ardente è chiamata atapa ed è definita come un bruciare i difetti mentali. And suddenly the purpose of this ardent energy is to prevent the arising of unwholesome states, to arouse suddenly or to call to bring about the arising of wholesome states, and suddenly to endure bodily feelings that have arisen and are distressing. To endure them? Yeah, to endure. Endure means to keep them. No, to endure, to withstand them. Quindi lo scopo di questa energia ardente è quella di evitare che sorgano degli stati non salutari nella mente, di aiutare invece lo sviluppo di stati salutari nella mente, e anche di aiutare il meditante a sopportare quegli stati non piacevoli o sgradevoli che possono sorgere, sia fisici che mentali. Now, in the context of our Satipatthana practice, we need effort, and effort is nothing other than this ardent energy, atapa, that certainly has been mentioned. Quindi nella nostra pratica di Satipatthana è necessario avere molto sforzo, e questo sforzo corrisponde proprio a questo atapa, cioè questa energia ardente di cui abbiamo appena parlato. So, oftentimes people don't quite understand what is meant by effort and suddenly. So the Buddha has tried to capture its certain qualities by expressing it in different ways, such as he speaks of striving, he speaks of trying or endeavoring harder and or exerting oneself harder and harder. Quindi molte persone si chiedono cosa si intenda per sforzo, insomma che tipo di sforzo occorre mettere nella pratica, e il Buddha ha cercato di definirlo con delle qualità, e qui ho qualche difficoltà nella traduzione, perché striving è un po' come una sorta di lotta, cioè lottare, quindi andare avanti con energia, con forza. The second you said, after striving, or exerting harder and harder, oppure lo sforzarsi, proprio un sinonimo di nuovo, sempre di più, cioè mettere sempre più sforzo. However, this effort, as mentioned already last night, it needs to be a balanced effort. Però, come abbiamo già detto, questo sforzo deve essere uno sforzo equilibrato. Now, in the presence of effort, the mind does not collapse. So let's say if we're observing some pain, and at first mindfulness is there, and then concentration is there, wisdom is there, then over time, observing the pain may be somewhat difficult, and with this gradually the mind loses its strength, and the wholesome mental states such as mindfulness and the intuitive wisdom and others might fall away. They might start losing their strength. E quindi alla presenza di questo sforzo permette alla mente di non crollare di fronte a delle difficoltà. Per esempio, può sorgere un dolore molto forte, e anche se la mente comincia a osservare il dolore con quelle qualità di consapevolezza, di saggezza e di concentrazione, però a lungo andare, se il dolore cresce, allora la mente potrebbe perdere queste qualità, e quindi potrebbe diminuire un po' la sua consapevolezza, la sua attenzione. So its function is certainly given as a support of the associated mental states, and its manifestation is as non-collapse of the mind. E quindi la sua funzione è proprio questo di sostegno degli altri stati mentali positivi, e la sua manifestazione è questa del far sì che la mente non crolli, ecco, la protezione della mente. And certain effort has been characterized as certain endurance, or the ability to withstand difficulties. This is the one, not the manifestation. Oh, the characteristic. La caratteristica dello sforzo è quello del sopportare le difficoltà che si presentano nella mente. And now, when it comes to this effort, we don't want too much of it, but also if it's lacking, the practice will not work. Quindi per quanto riguarda lo sforzo, è vero, non ne vogliamo troppo, ma anche se manca lo sforzo, non va bene, perché la pratica poi non funzionerà, non andrà avanti. In accordance with the Chanki Sutta that was mentioned last night. There are certain factors that lead up to wisdom. Among those, faith is the first one, effort or energy is the second one, and the third one is suddenly given as mindfulness, and suddenly this then is followed by concentration and wisdom. Quindi nel Chanki Sutta, che è stato menzionato ieri sera, ci sono dei fattori che portano allo sviluppo di questa saggezza intuitiva. La prima era la fede, spero di dirlo nell'ordine giusto, poi c'era lo sforzo come secondo, la terza è la consapevolezza, poi la concentrazione e infine la saggezza. And between faith and effort, we might also add a desire to practice or taking interest in the practice. Quindi tra la fede e lo sforzo possiamo inserire un altro fattore che è l'interesse nella pratica, il desiderio di intraprendere la pratica. Now, today we have talked especially about mindfulness, but also to some extent about effort. And I hope that in the course of your practice, gradually concentration arises, that gradually becomes stronger and stronger, and suddenly then intuitive wisdom unfolds, and with this then faith also arises. Quindi abbiamo parlato soprattutto di consapevolezza stasera, anche un po' dello sforzo, e io mi auguro che durante la vostra pratica si sviluppino anche quegli altri fattori come la concentrazione, poi grazie a questo che voi possiate sviluppare una sempre maggiore saggezza, e quando questi quattro fattori saranno sviluppati potranno poi rinforzare il primo fattore, che è quello della fede. Now, to conclude today's Satya Dhamma talk with a Dhammapada verse, namely Dhammapada verse 112, which Shatna says, better than 100 years in the life of a person who is idle and inactive is a day in the life of one who makes a strenuous effort in the mindfulness practice. Allora, per concludere, un verso del Dhammapada, il verso 112, che recita: meglio che 100 anni nella vita di una persona pigra e indolente e un solo giorno nella vita di un praticante che si sforza di praticare la consapevolezza. And this is it for tonight. E quindi per questa sera ci vediamo qui. Sadhu, sadhu, sadhu. I'm sorry, this light went out. Just before the Just before the time. Yeah, never mind. Oh.